Amen. Buongiorno Chiesa. Vi sentite arricchiti stando qui? Con a fianco quello che hai e con dietro quello che hai? È una ricchezza? E allora girati, non a chi ti è a fianco, ma anche, e girati, dai un abbraccio forte, perché questa è la ricchezza che noi abbiamo. Amen. Abbraccia come se non lo vedessi da un anno. Signore Gesù, vogliamo dirti grazie che abbiamo te nella nostra vita e che hai aggiunto a noi ricchezza immensa, dandoci il fratello, la sorella che non abbiamo cercato, che abbiamo solo trovato in te. Grazie per tutto quello e quanto fai per ognuno di noi. Signore, benediciamo te perché sei la salvezza e il bene nostro che non possiamo misurare. A te, o Padre, diamo la gloria, la lode, l'onore in Cristo Gesù, nostro Salvatore. Amen. Amen. Amen. Potete accomodarvi. Inutile che do il tema. Il tema è tu e non io. Tu e questo è da parte del pastore, dei predicatori, deve essere fatto in modo che diventa ossessivo per tutti noi. E da parte nostra lo dobbiamo talmente tanto prendere che deve diventare carne della mia carne, come ha detto qualcuno all'inizio, cioè deve far parte di noi profondamente quel tu prima, dopo io. Tu prima, detto al Signore, ma detto anche al fratello. Però per vedere il tu, è necessario anche che guardiamo un momentino al non. È importante quanto il tu, non che ha a che fare con il lasciare, non prendere, staccarsi, non, no. Non vuol dire anche no, non prendere, lasciare. Per vedere anche meglio questo aspetto, ma a me è diventato quasi non ossessivo nella maniera buona, nel senso che per ogni cosa io vado a riflettere su questa profonda e grande verità. E per prenderci cura di questo e vederlo e approfondirlo per noi stessi, io l'ho fatto per me, lo sto facendo per me, e ho preso in esame il passo chiave che il pastore ci ha dato all'inizio dell'anno. Qual era? Lo ricordate? Anche il nome, anche... Amen. Amen. Luca, capitolo 9, verso 23. Lo leggiamo. Poi a tutti diceva, a te e a me, se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Vi ricordate adesso? Sì. È solo che non focalizziamo, poi sapendo come faccio io le domande è meglio non rispondere. Prenda la sua croce. Per me è diventato un motivo di andare a ricercare e continuare a ricercare dentro di me, nella mia vita. E mi sono posto una... Io vi darò semplicemente quello che ho riflettuto per me. Perciò prendetelo come una testimonianza, come quello che io ho vissuto. Questo può non valere per tutti, però io credo che può essere utile per tutti quanti, per tutti quanti noi. Io mi sono chiesto, ma che cosa intendeva il Signore con prenda la sua croce e mi segua? Allora, lì io ho dovuto riflettere e dire, allora devo portare il mio peso, la mia sofferenza me la devo tenere, le mie angosce devono rimanere dentro di me? È questo prendere la propria croce? No. Non è possibile. Perché? Perché è Gesù che ha portato questo sulla croce. La croce per lui era un supplizio, ma per noi è tutt'altro. Intanto allora sfatiamo il credo comune che è proprio quello di dire io devo portare il mio peso, lo devo accettare, è capitato a me, era meglio al vicino, però è venuto a me, e me lo tengo io. Assolutamente, assolutamente no. La sofferenza, sia interiore che fisica, l'ha portata il Signore, l'abbiamo cantato, che è salito sulla croce, noi abbiamo ricevuto liberazione. Perché Lui è andato in croce, noi abbiamo ricevuto perdono e rimissione. Perciò non è portare le sofferenze. Gesù lo ha fatto per noi, punto e basta. Non c'è da interrogarsi su questo. Questo io ho visto. Perché? Perché io dico questo? Perché molte volte io mi porto nei pensieri, nei sentimenti, anche solo sottile, fine, quel senso di colpa, quell'essere inadeguato, quel non sapere, non riuscire a realizzare, e rimane sempre e rimane come una nuvola buia dentro che ogni volta che ti vai a scontrare ti fa male, e ti fa male anche fisicamente, tu lo senti proprio alla gola come un nodo. Gesù lo ha fatto, Gesù lo ha portato questo alla croce. Per noi la croce non è il mezzo di supplizio, lo è stato per Gesù il mezzo di sofferenza, per noi è il mezzo di liberazione. Lo abbiamo cantato, Gesù è andato alla croce per la nostra liberazione, per la nostra guarigione. E per noi la croce deve essere, almeno per me, questo io ho riflettuto, per me la croce deve essere prendere coscienza, essere consapevole che di fronte alla mia sofferenza c'è la croce. Di fronte al mio dolore, di fronte al mio peso c'è la croce. Dove è la croce? Per me è quel mezzo dove inchiodare la mia sofferenza, dove inchiodare le mie ansie, le mie paure, le mie preoccupazioni. Perciò c'è quella croce e noi la dobbiamo, diciamo, guardare attentamente. Leggiamolo insieme, che significa proprio questo, che non è qualcosa solo di mia riflessione, ma che la parola di Dio ci guida in questo. Isaia 53, lo conosciamo molto bene, ma ascoltate quello che è scritto. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percorso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore. Ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi lo tosa, egli non aprì la bocca. È incredibile, non trovate? È un passo allucinante. Se noi realizziamo, constatiamo, prendiamo coscienza che la croce è la nostra salvezza in ogni momento, in ogni situazione, in ogni aspetto della nostra vita, veniamo veramente, veramente liberati. Ora però voglio mostrarvi un qualcosa che è diventato un cimelio storico, va bene? Quanti di voi hanno fatto almeno un ritiro? Posso vedere le vostre mani? Voi che non avete alzato la mano, ringraziate che non riesco a vedere bene bene, d'accordo? Va bene? Il ritiro è veramente un nuovo inizio, il ritiro è veramente mettere un primo passo. Io vi mostro qualcosa perché io lo sentivo, come anche questa mattina, alla mia maniera, io sentivo che dovevo far realizzare qualcosa di pratico, di reale. Volevo che ognuno si attivasse per qualcosa che poteva fare. Allora ho preso un pezzo di legno, letteralmente, è proprio un legno vecchio, un legno. Ci ho disegnato come una croce sopra e ognuno, io non credo, forse non ci sono, che tolto Stefano, non ci sono altri che possono riconoscere questo pezzo di legno. C'è qualcuno che lo ricorda? No. Qualcuno sì. E c'erano, e io ho messo tanti chiodi, uno diverso dall'altro, e ognuno doveva andare a piantare un chiodo e sceglierlo secondo la propria decisione. C'era quello grande, c'era quello storto, c'era quello contorto, quello particolare. Ognuno ha dato un significato a questo, al chiodo che ha messo. Vedi, ce n'è pure uno nuovo. E questo è l'ultimo che ho messo io, giorni fa, Ancora, quindi io lo tengo sempre come il mio, ormai ha più di... Ha più di 20 anni, molto di più di 20 anni, e lo tengo. Però è reale. È necessario che noi compiamo anche atti pratici, è un lasciare, è un prendere una decisione. Quella è la croce. Nel momento in cui noi decidiamo di lasciare, di non portare con noi, di non prendere sulle nostre spalle, siamo di fronte alla croce. Gesù ha fatto della croce, che per lui era un mezzo di supplizio, ha fatto un mezzo di guarigione, di liberazione. È incredibile. E così noi dobbiamo vivere la croce, dobbiamo poter andare a inchiodare le nostre paure. Ogni volta che si affaccia un timore, una paura, un'apprensione, un peccato, non è detto che anche i peccati noi li continuiamo a commettere, perché molte volte, li abbiamo vinti, li abbiamo lasciati da parte, ma molte volte si affacciano alla mente, passano veloce. Vi ricordate Gesù? Gesù ha detto: non solo chi commette adulterio, ma anche se solo lo pensi e desideri. Allora, questo vale anche con i nostri peccati di sempre, ed è per questo che è la croce, affinché ogni giorno viene rinnovato quel nostro aspetto, fino a quanto? Fino alla liberazione. Perché la croce è liberazione, fino alla liberazione. E così anche con le nostre infermità, non le accettare, non le prendere, non logicamente non le subire, nel senso che affidale al Signore. Il Signore sa come e quello che deve fare. Logicamente questo è stata la mia riflessione, però poi alla fine mi sono reso conto che il Signore Gesù aveva già, nel passo che abbiamo letto in Luca al capitolo 9, aveva già spiegato che cosa vuol dire prendere la propria croce ogni giorno e seguirla. Perché prima di dire prendi la tua croce, che cosa ha detto? Se qualcuno vuole venire dietro a me, che cosa deve fare? Rinnegare se stesso. Che cosa vuol dire rinnegare se stesso? Vuol dire annullare noi stessi, annullare la nostra identità, la nostra caratterialità, il nostro modo di essere? È impossibile. Ognuno di noi è fatto in un modo unico e stupendo. E il diavolo ci ha messo la parte sua, che ha guassato qui e là, va bene? Però il rinunziare a se stesso non vuol dire che dobbiamo annullare noi stessi. Dobbiamo annullare quello che non ci permette di arrivare al Signore, quello che è una barriera fra noi e il Signore, il peccato prima di tutto, il pensiero del peccato prima di tutto, e anche quelle attività, anche quel dire, io forse lo dirò in maniera forte, ma in reale, anche quel dire: ma a me il Signore non cura, è peccato. Perché non è vero, perché è la menzogna del diavolo nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri per farci rimanere lontani, lontani da Dio. Invece lui è andato alla croce proprio affinché ci potessimo avvicinare. Ma la domanda persistente, anche dentro di me soprattutto, però credo che ognuno di noi ce l'abbia, è: ma dov'è la croce? Ora, quelle religioni che fanno dei simboli, degli oggetti di culto, è più facile, sembrerebbe. Perché vai alla croce, ecco, questo può diventare anche un mezzo di un culto, un adorare quell'aspetto, quel chiodo, chi lo riconosce ancora che lo ha messo? No, no, assolutamente no. Non è più facile. Beh, questo ve la devo raccontare. Voi sapete che io dall'infanzia fino all'adolescenza inoltrata sono stato anche proprio chierichetto, va bene? E allora c'era un crocifisso nella chiesa, che un piede dell'immagine di Gesù era completamente consumato. Sapete che nella crocifissione mettono un piede sopra l'altro? Allora il piede sporgente, le dita del piede sporgente erano completamente consumate, perché ognuno che era, poi l'hanno cambiato, ognuno che entrava nella chiesa dalla porta laterale andava, toccava il piede e lo baciava, oppure andava e baciava direttamente il piede, al punto tale che si era consumato. Noi, alcuni fra i chierici, c'è sempre quello qualcuno un po' più, vabbè, così. Che cosa ha pensato? Ha pensato, allora ce n'era assai, proprio si usava molto, il peperoncino macinato. Ha messo un buco di acqua santa sul piede e ha strofinato il peperoncino. E noi stavamo lì, facevamo finta di fare qualcosa. Allora, come arrivavano quelli? Toccavano il piede e lo baciavano. Dopo un poco vedevi che non avevano il coraggio di leccare o di si sentivano, dice, ma che sono stato toccato dal Signore, che cosa è successo? E noi lì che ridevamo. Sì, sotto certi aspetti l'immagine fisica può essere un aiuto, ma non è quello che noi dobbiamo ricercare. Questo accadeva realmente, però eravamo un po' anche cattivelli. Ma noi dobbiamo realizzare che tu ed io non portiamo i pesi, non li possiamo portare. Quando ce ne carichiamo, rimaniamo schiacciati. Lo avvertite questo? Quante volte viviamo giornate malamente a causa che un pensiero o un sentimento ci schiaccia? E lo dobbiamo portare alla croce, perché lì vediamo la reale e vera liberazione. Voglio leggere un ultimo passo che si trova in 1 Pietro. È scritto la stessa cosa, però e questo è anche nel Nuovo Testamento, e dice: egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la grazia e mediante per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati guariti. È una realtà, la viviamo come realtà, fratelli e sorelle? O è solo un modo di dire nella Bibbia esagerato, eclatante, che non ci appartiene perché è troppo grande? Siamo noi che lo dobbiamo rendere carne e sangue della nostra vita. La croce per noi, la liberazione. E ci dobbiamo rendere conto di questo. Io voglio fare un ultimo esempio. Un'immagine di quello che è anche la croce. Nell'Antico Testamento si parla del deserto. Il popolo di Israele ha trascorso 40 anni della sua esistenza nel deserto, mentre bastavano semplicemente un paio di settimane per arrivare alla terra che il Signore aveva promesso loro. E perché sono stati nel deserto 40 anni? Certo, per la loro Hanno girato, sì, girato continuamente, ma perché hanno girato? Per la loro... Sì, per la loro ribellione, per quel sempre criticare sia il Signore e gli altri. Quindi era una conseguenza, diciamo così, anche del loro peccato. Ma non era questa la vera motivazione. La vera motivazione era... Dice, valla a pescare, mo la do la risposta che vuoi tu, vabbè. La vera motivazione era la purificazione. Il deserto serviva a purificare il popolo di Israele. Nella terra promessa non dovevano entrare le 10 spie che hanno, come dire, criticato la terra che il Signore aveva promesso loro. Non dovevano entrare quelli che si sono costruiti un vitello d'oro e lo hanno adorato. Non dovevano entrare quelli che si erano ribellati e lamentati. Eppure il Signore, pur essendo nel deserto, laddove manca tutto, non c'è cibo, non c'è acqua, non c'è ombra, non c'è l'ombra di niente, anzi c'è molto freddo la sera, eppure il Signore non ha fatto mai mancare nulla. Avevano fame? Non c'è, anzi nemmeno forse avevano fame, era lamento per lamento. E mo che cosa dobbiamo mangiare? Il Signore ha fatto scendere, vi ricordate, la manna dal cielo, che era un frutto, e quindi loro potevano raccogliere e mangiare continuamente. E poi dice sempre la stessa minestra. E che cosa ha fatto il Signore? Ha fatto scendere le quaglie che volavano ad altezza d'uomo, e loro li potevano prendere, hanno mangiato la carne, non trovavano acqua, e il Signore ha spaccato la roccia per far di quella roccia una sorgente, e a causa di quella roccia che nemmeno Mosè è potuto entrare nella terra promessa, perché ha battuto due volte, non ha creduto fermamente, non ha creduto fermamente alla parola del Signore. Ha battuto due volte, pensando che era lui che doveva spaccare la roccia. E da lì è venuta fuori l'acqua. Il Signore, anche nel deserto, non ha fatto mancare niente, però doveva purificare quel popolo. E l'unico modo per purificare quel popolo era che la vecchia generazione morisse e che solo la nuova generazione poteva entrare nella terra promessa. La generazione che avevano visto i miracoli nel deserto e la protezione nel deserto. Ora termino anche con questo. Ti senti nel deserto? Beh, qualche volta sì. Qui le mani si alzerebbero tutte quante, chi più, chi meno. A volte ci sentiamo nel deserto dove non c'è, o c'è poco di tutto, c'è poco. Quando ci troviamo nel deserto ci sembra che ci manca tutto, anche se è solo una problematica che stiamo vivendo, ma ci sembra che la nostra vita è inutile e non serve a niente, c'è poco di tutto. Ti senti nel deserto? Il Signore non fa mancare mai nulla ai Suoi. C'era bisogno di cibo, è venuta la manna, c'era bisogno di carne, è venuta la carne, c'era bisogno di acqua, è venuta l'acqua, c'era bisogno di vincere il nemico, ha aperto il Mar Rosso. E così è anche con noi. Vedi tutte le volte che il Signore ha aperto il Mar Rosso davanti a te, che il Signore ha mandato la manna, che il Signore ti ha dato anche il di più. Vedi quegli aspetti e renditi conto che quella è la nostra croce, nel senso di portare a Lui tutto quello che non va. Ora, per terminare, questa mattina, oltretutto, abbiamo anche la cena del Signore, che è la stessa cosa di mettere un chiodo alla croce. Allora io ho pensato una cosa, mettere il chiodo è un poco... Vorrei che facessimo qualcosa di pratico per la nostra vita, nel senso che prendere, forse hai da prendere una decisione, forse hai da lasciare un peccato, anche il pensiero di un peccato, hai da separarti da qualcosa. Allora lo vogliamo fare fisicamente. Questa volta ho fatto una croce di polistirolo, va bene? Quindi è più facile. La mettiamo qua. E ho portato... dei chiodini, le cosiddette punesse. Questa volta non sono di misura diversa, sono di colore differente, va bene? Quindi, ognuno di noi che sente che questa mattina deve prendere una decisione, o deve lasciare qualcosa, allora vienilo a fare fisicamente. Non che questo significa, è un simbolo, però ci ricorda che noi abbiamo fatto quell'atto di voler lasciare quella parte che è dentro di noi, o è a fianco a noi, o è avanti a noi, e che ci è di impedimento. Se lo fai, rimani qui davanti, e poi anche la cena del Signore non è quello, la stessa cosa. La cena del Signore è rivivere, ricordare che Cristo Gesù è andato alla croce e che ha versato il suo sangue per noi, e che noi celebriamo e partecipiamo alla cena del Signore in vista del suo ritorno. Allora possiamo fare le due cose. Logicamente, per la cena del Signore, noi abbiamo come linea guida che chi è battezzato partecipa, anche chi ha deciso di battezzarsi, ma chi non è ancora battezzato che stia in riflessione, però può partecipare a questo, che è praticamente la stessa cosa. E per guidare questo aspetto vorrei invitare il pastore a venire avanti.